24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegata a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. L'Italia e la Polonia sono gli unici due paesi europei che hanno dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione delle forniture di gas. La dichiarazione è stata fatta sulla base del regolamento europeo 2010 che prevede tre livelli, ha riferito la portavoce della Commissione europea Marlene Holzner. Lo stoccaggio europeo, spiegano da Bruxelles, può assorbire la situazione. Intanto però in tutto il continente è ancora emergenza freddo. Dall'Europa dell'Est ai Balcani, dalla Germania all'Italia, è un record di temperature siberiane. Le vittime hanno ormai superato le 350 nel vecchio continente. In Polonia il gelo ha provocato altri 6 morti assiderati, portando a 68 il totale delle vittime negli ultimi 10 giorni, per lo più senza tetto. Le temperature sono leggermente risalite, fino a meno 15, meno 10 rispetto ai meno 25 dei giorni scorsi. In Serbia è salito a 11 il numero delle vittime del gelo, dopo che a Belgrado una donna è morta sul colpo, colpita da lastroni di ghiaccio e neve precipitati da un tetto. Le autorità sono intanto impegnate nel liberare dai ghiacci i fiumi più importanti, a cominciare dal Danubio, il cui corso è ghiacciato per un centinaio di chilometri in territorio della Serbia verso la Romania. E proprio in Serbia è in vigore lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale. Le scuole resteranno chiuse per tutta questa settimana e quasi 70.000 persone sono sempre isolate in villaggi sepolti letteralmente dalla neve, raggiungibili solo con l'impiego di elicotteri. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Drastico e sorprendente calo della produzione industriale tedesca a dicembre ha segnato una flessione del 2,9% rispetto a novembre, contro stime per un dato invariato. Si tratta della peggiore contrazione da 3 anni a questa parte. Su base annua, l'indice corretto per effetto di calendario ha registrato una crescita dello 0,9%. E per la Grecia a rischio default è stata una nuova giornata di sciopero generale contro le misure per l'austerity. Il governo greco si riunirà oggi verso mezzogiorno per approvare l'accordo sulle misure di austerità e ottenere in cambio gli aiuti internazionali. L'ho detto un portavoce del governo di Atene, scrive Bloomberg, precisando che l'Eurogruppo sul salvataggio della Grecia potrebbe essere convocato domani. Intanto la buona notizia è che è andata bene l'asta dei titoli di Stato greci a 6 mesi. Vittorio Darol, del Sole 24 Ore, al microfono di Anna Migliorati. I compratori sono con molta probabilità ancora una volta Mario Draghi, inteso come governatore della Banca Centrale, oppure le stesse banche greche, che sono quelle che più degli altri sostengono in qualche modo il loro governo, hanno una moral suasion ad acquistare se non ci sono altri compratori, diciamo così, queste quindi acque che sono sempre andato bene. Assolutamente, il problema è semplicemente quello di arrivare a un default ordinato, ed è questa la vera scommessa. Se non ci fosse, la prossima problematica, perché molti commentatori dicono bah, ormai la Grecia viene data per un default ormai acquisito, niente di più falso, perché se ci fosse un default disordinato la prossima preda della speculazione sarebbe il Portogallo e subito dopo il Portogallo sarebbe la Spagna. Intanto i listini europei hanno recuperato terreno a fine seduta proprio in attesa di sviluppi sul fronte della crisi greca. Londra ha ridotto i cali quasi a zero, meno 0,03%, Parigi ha chiuso a più 0,18%, Francoforte ha perso lo 0,16%. Nuova seduta nel segno della Grecia per le borse europee. I listini hanno allungato il passo sul finale grazie alla speranza di un'intesa in arrivo tra il governo di Atene e i creditori privati per la ristrutturazione del debito. Piazza Affari è stata la migliore, guadagnando lo 0,41% sul FTSE All Share e lo 0,62% sul FTSE MIB. Tra i titoli a maggiore capitalizzazione la maglia rosa è stata Unicredit, salita del 4,7% dopo la conclusione dell'operazione di riacquisto dei bond e la conferma del rating da parte dell'agenzia Fitch. Debole invece in Pregillo, meno 4,99%, penalizzata dall'ipotesi di un'uscita di Salini dal capitale. Nel resto del listino, dopo i balzi delle ultime sedute, le prese di beneficio hanno colpito i titoli legati all'aggregazione tra Unipol e Fondiaria Sai. La compagnia bolognese ha perso il 12,5% e Fonsai il 19,5%. Paolo Paironetto da Radio Cor per Radio 24, Il Sole 24 Ore. lavorare fino a 75 anni. La proposta in Europa è arrivata dal primo ministro svedese Fredrik Reinfeldt, che ha invitato i cittadini a lavorare appunto fino a quell'età e essere pronti a cambiare carriera dopo i 50. In un'intervista ha inoltre esortato le aziende ad assumere personale over 55. Resta la Svezia, la prima della classe in Europa in fatto di innovazione, e quanto emerge dall'Innovation Union Scoreboard, la nuova pagella della Commissione sull'innovazione presentata a Bruxelles. La graduatoria divide i paesi dell'Eurozona in quattro gruppi. La Svezia guida la pattuglia di testa, formata da Danimarca, Germania e Finlandia. Il secondo gruppo vede in testa il Belgio, seguito da Gran Bretagna, Olanda, Austria, Lussemburgo, Irlanda, Francia, Slovenia, Cipro ed Estonia. L'Italia guida il terzo gruppo, che include Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Ungheria, Grecia, Malta, Slovacchia e Polonia, tutti sotto la media. Centinaia di voli annullati in Francia. Il secondo giorno di sciopero del settore aereo ha creato ancora più disagi, con Air France costretta ad annullare quasi il 50% dei voli a lunga percorrenza contro il 15% di lunedì. Al centro della polemica proprio il diritto di sciopero e il progetto di legge, già passato alla Camera il 24 gennaio, che impone più regole a chi incrocia le braccia per meglio tutelare passeggeri e compagnie. Il testo passerà all'esame del Senato il 15 febbraio. Ed è previsto per lunedì prossimo, alle 11 italiane, dal poligono europeo di Kourou in Guyana francese, il via libera per il piccolo lanciatore europeo Vega. Si tratta di una nuova classe di razzi che completa la capacità di accesso europeo all'orbita bassa, affiancandosi ad Ariane 5 e al russo Soyuz, che dallo scorso anno viene lanciato anche dall'Agenzia Spaziale Europea ESA. Vega è il primo lanciatore costruito quasi completamente in Italia, negli stabilimenti dell'Avio di Colleferro, in provincia di Roma. Pier Giuliano Lasagni, responsabile operazioni spaziali di Avio, al microfono di Paolo Piacenza. In tutte le nostre attività della nostra società Avio, il discorso dell'ambiente sta diventando un leitmotiv, per cui quotidianamente insomma ci pone di fronte alle domande: cosa facciamo next, no? Per essere capaci di avere un prodotto che sia ecosostenibile in tutti i suoi aspetti. Lo stadio alto di solito utilizza motori ad alto contenuto energetico. Ci siamo resi conto che dal punto di vista puramente, diciamo, ecologico e energetico, il motore criogenico che utilizzi l'ossigeno liquido e il metano liquido è sicuramente quello che ha meno impatto nell'ambiente. Mi pare che ci sia anche un altro aspetto, cioè la possibilità di recuperare l'ultimo stadio, che di solito non è automatica, molto spesso questo rimane in orbita. Oggi noi ci poniamo su Vega, del primo vettore, che si pone il problema di non lasciare in orbita un elemento che diventa praticamente un grosso detrito spaziale. Quindi in orbita si lascia il satellite perché deve operare una certa missione, ma diciamo lo stadio che ha accompagnato nella sua ultima fase il satellite viene fatto rientrare nell'atmosfera. In questo caso il rientro, no, è un rientro per distruggere lo stadio. Va detto che noi in Italia stiamo anche con lo stesso Vega, uno dei carichi che andremo a provare è un modulo di rientro su cui potremo poi impostare il vero e proprio capacità di recupero dello stadio superiore. Spagna batte Italia nella corsa al top della cucina e del gusto. Il miglior cuoco del mondo è infatti uno spagnolo, Juan Roca del Seller di Girona, che ha spodestato lo chef pluristellato Massimo Bottura dal trono assegnatogli l'anno scorso dall'Accademia Internazionale della Gastronomia. È la fine di un'era. Florence Green, l'ultima reduce della prima grande guerra mondiale, è morta in una casa di riposo del Norfolk, in Gran Bretagna, due settimane prima del suo 111° compleanno. La Green, che si era arruolata tra le ausiliarie della RAF nel settembre 1918 a 17 anni, era rimasta l'ultima persona in tutto il globo ad avere prestato servizio attivo nella prima guerra mondiale. Ed è tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Grazie a Daniele Teruzzi in regia, grazie a voi per l'ascolto, un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.